Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Vi ricordo in ordine inverso questa volta. Va, facciamo un'eccezione. Le tre informazioni di servizio. Prima è quella che riguarda il nostro sito radio24.it, bellissimo sito nel quale, andando per ordine, cronologia, trasmissione e addirittura conduttore, potrete scaricare tutte le puntate che non avete ascoltato e andarle a cercare anche per tipologia, simile ai casi che voi vorreste magari mettere in luce, come con una mail a Radio 24 e segnatamente a questa trasmissione, ed è un abuso al giorno @radio24.it. L'ultima informazione di servizio è il mio blog Guardie o Ladri, lo trovate sulla prima pagina del Sole 24 Ore online, in mezzo a tutti gli altri faccini dei bloggers del Sole c'è anche il mio, e appunto il mio amore, posso dire, che quel blog lo amo da morire, che è Guardie o Ladri. Parlo, come voi sapete, di temi di legalità e criminalità organizzata, temi che tratto ormai da anni sul Sole 24 Ore. Allora, una nostra radioascoltatrice, fedelissima radioascoltatrice di Roma, Alessandra Brizzi, ci ha segnalato un disservizio con H3G, un disservizio nato, diciamo, in un'occasione meravigliosa quali i mondiali di nuoto a fine luglio 2009 a Roma. Per parlare di questo, ma anche per allargare un po' il discorso a temi più generali, come voi sapete non li amo quelli puntuali e singoli, abbiamo il piacere di avere con noi Fabio Marra, che è il responsabile dei rapporti di soddisfazione con il cliente di H3G. Buongiorno Marra. Buongiorno. E abbiamo la nostra radioascoltatrice, ovviamente, Alessandra Brizzi. Buongiorno Brizzi. Buongiorno dottor Galullo. Allora, ci spieghi che cosa è accaduto quel giorno durante i mondiali di nuoto presso lo stand mobile di Tre. Niente, alla fine di luglio appunto ho sottoscritto un abbonamento in uno stand allestito per l'occasione. Mi è stato consegnato tutto il materiale per la chiavetta mobile, insomma, per internet veloce. Quella che in questo momento vediamo pubblicizzata anche sì. Nelle televisioni, con lo splendido volto della Gerini che invita all'acquisto di questa chiavetta. Sì. 100 ore di navigazione, 19 euro al mese, senza spese di attivazione, insomma, e io ho scritto questo abbonamento. Tornando a casa, cioè tre giorni dopo però, ho praticamente restituito tutto, perché tornando a casa avevo trovato delle cose che non andavano, cioè non mi aveva soddisfatto il tutto, e ho preferito rimandare tutto. Quindi fare a meno di questa offerta che H3G le proponeva. Ha provato quindi a restituire, e lì c'è stato probabilmente l'inizio di una pastoia, diciamo così, di difficoltà con l'impresa, con l'azienda, dico bene? Sì. Dunque c'erano 10 giorni di tempo per il recesso, senza incorrere in sanzioni, e io ho fatto il tutto entro questi 10 giorni, solamente appunto non ho mandato una lettera di disdetta per via raccomandata, perché il signore che mi aveva fatto l'incaricato della stipula del contratto, insomma, sì, mi aveva assicurato che non sarebbe stato necessario, bastava la restituzione. Sì, d'altronde non avevo letto da nessuna parte che durante questi 10 giorni si sarebbe dovuto procedere in quel modo, per cui ho risperito tutto quanto il materiale semplicemente con il corriere addetto. A quel punto però che cosa è successo? Che lei ha ricevuto una nota di accredito, suppongo? Sì, la prima fattura di euro 54 circa. E poi alla fine come si è risolta la questione? Glielo domando. Si è risolto che io ho fatto una lettera di reclamo alla quale nessuno mi ha risposto. Poi ho continuato a ricevere un'altra fattura di 38 euro e successivamente ho chiamato per sapere qualche cosa. Non sono riuscita a parlare praticamente subito con nessuno. Allora ho spedito una mail. Mi è stata fatta una risposta dicendo appunto che la situazione era stata presa in considerazione, che sarei stata ricontattata. Devo essere stata ricontattata, credo, ma non sono riuscita mai a rispondere nel momento giusto in cui, in quanto o stavo andando a portare la spazzatura fuori da casa, oppure appena rientrata in casa non riuscivo a tirare sul telefono che subito smetteva di trillare. Insomma, ha avuto questa difficoltà. Fatto sta che lei, nella mail simpaticissima, che ovviamente H3G ha in mano, ha detto: o mi rivolgo ai carabinieri o mi rivolgo a Radio 24, e alla fine, magicamente, come spesso accade, ci metto un pizzico di malizia e il caso si è risolto, vero, dottoressa Brizzi? Sì, purtroppo in questo modo. Ecco, allora, dopo l'intervento di Radio 24 non facciamo nessun tipo di miracolo, anzi, però magari, come dire, riusciamo a smuovere qualcosina. Allora, dottor Marra, che cosa c'è stato di sbagliato nel rapporto tra H3G e il cliente? Se c'è stato qualcosa di sbagliato, ovviamente, visto dal vostro punto di vista. Sì, certo. Allora, anzitutto mi scuso con la cliente per quanto accaduto, perché stiamo parlando del nostro prodotto di punta e ogni volta che sentiamo che un cliente per un qualche motivo effettivamente non trova soddisfazione, ovviamente per noi è una grande delusione. È un colpo al cuore. Ma assolutamente così. Certo. Assolutamente. È il motivo per cui poi oggi sono qua a testimoniare proprio certo. questa cosa. Oggi ci sono stati in effetti delle difficoltà oggettive. Alla fine io credo che tutto sia stato dalla un'informazione che è stata data imprecisa in fase di sottoscrizione del contratto e che quindi ha generato poi questo meccanismo di incomprensioni tra la cliente e l'azienda. Ecco, di fatto, l'imprecisione qual è stata? Perché io ne ho vista una, vediamo se abbiamo visto la stessa. Allora, l'imprecisione in realtà è stato dato il fatto di avere questa chiavetta come prova e poi che sarebbe stato sufficiente effettivamente rispedire indietro la chiavetta. Esattamente, quello che io avevo notato, perché mi pare abbastanza strano che qualcuno possa dire: guardi, dottoressa Brizzi, ma può essere chiunque altro, basta che ci rispedisce indietro il pacchetto. Questa non è un'informazione corretta. In effetti è imprecisa, perché in realtà la cliente ha di fatto sottoscritto un contratto che però è normato dal diritto di recesso, quindi entro 10 giorni la cliente si può avvalere della facoltà, una volta approvato il prodotto e accortasi, così come è successo, e questo magari mi piacerebbe sapere poi effettivamente cos'è che non è andata, poi poteva avvalersi di questa cosa, però questo ha una procedura formale, no? Che è regolata e normata per legge. Esattamente. Ecco, però io le chiedo questo, dottor Marra, e io non sono un giornalista buono, sono un giornalista cattivissimo, sono persino antipatico a me stesso, quindi si figuri lei agli altri. E allora speriamo bene. Ecco, no, ma le chiedo questo, ma come li formate voi coloro i quali vanno a vendere i pacchetti? Non credo che ci possa essere cattiva fede nel dire al proprio venditore: guarda, cavatela dicendo che basta che lo rimanga indietro, tanto poi se fa così è sbagliato e quindi noi abbiamo e portiamo a casa un contratto. Oppure viceversa fate dei controlli. Mi piacerebbe sapere questa persona, per esempio, che fine ha fatto, visto che io do per scontato la buona fede della nostra radioascoltatrice che ha detto quello che ha detto, vale a dire: questo incaricato mi ha assicurato che bastava rispedirla indietro. Prego, Marra. Allora, guardi, ovviamente sulla buona fede di quello che dice l'ascoltatrice non si può assolutamente entrare in questo merito. Per quanto riguarda invece questa tipologia di vendita, ci sono due elementi da tenere in considerazione. Il primo è che non è una vendita che effettua direttamente H3G, ma si avvale dei leader di mercato che sono agenzie che si occupano di questi eventi. Infatti, come giustamente diceva la cliente, si è trattato di un contesto che non era un negozio della Tre. Certo. Ma uno stand. Però la faccia ce la mettete voi. Ovviamente. Vendono così. Esatto. E non solo, risponde in solido l'agenzia con cui noi facciamo questo contratto. Certo, certo. Come scegliamo noi le agenzie? Credo che questo sia il meccanismo sì, che molto interessante, prego, certo. Noi chiediamo degli standard di qualità e soprattutto misuriamo poi effettivamente la qualità e la bontà delle attivazioni che fanno. Nel particolare, l'agenzia che ha poi di fatto veicolato il nostro prodotto è una delle nostre agenzie migliori, quindi dove devo dire che in questo contesto dubbi sul fatto che ci sia l'assoluta buona fede su questa parte non ne avete. Da nostra parte, certo, quindi insomma diciamo così che la buona fede c'è in tutti, così come accolgo molto positivamente la volontà da parte di H3G di risolvere il caso, di risolvere anche i prossimi che ci saranno. Mi piace quando imprese e clienti parlano e dialogano, perché questo deve essere il reciproco ruolo. Quindi grazie a Marra di H3G, grazie alla nostra radioascoltatrice, in regia a Pietro Lacorte, in studio di Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.